أرضي وبلادي قلبي وفؤادي من هالمجد من هالمجد من هالمجد مجد مجد عاشت عربية حرة أبية في ظلكم قابوا أرضي وبلادي قلبي وفؤادي من هالمجد من هالمجد من هالمجد مجد مجد عاشت عربية حرة أبية في ظلكم Buongiorno Palestina. Anche oggi, come tutti i mercoledì dalle 19 alle 19.30, trasmettiamo da Radio Wombat mezz'ora sulla Palestina. Certe volte si tratta di interviste, certe volte di colloqui, certe volte di relazioni sui libri o su eventi che si sono svolti a Firenze o nella Toscana. L'argomento che trattiamo oggi è quello del come si studia in Palestina, del sistema di formazione, della possibilità di studiare in Palestina, nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico. Ne parliamo con Laura di Assopace Palestina, che ha anche un'esperienza diretta in questo campo, che poi vi racconterà. Inizialmente volevo evidenziare che il diritto all'istruzione è un diritto umano fondamentale, custodito dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, scusate, del 1948, e in altri accordi e dichiarazioni internazionali. Ora, come viene esercitato questo diritto? Secondo un rapporto della Commissione delle Nazioni Unite per i diritti umani, viene detto che un altro considerevole freno al diritto umano all'istruzione sono le occupazioni militari, di cui il conflitto israeliano-palestinese è l'esempio più notevole. Vediamo in questo contesto che cosa succede in Palestina, nella Palestina occupata. Allora ce ne parla Laura, prego. Buongiorno a tutti. Effettivamente quello che è stato detto adesso è fondamentale per capire cosa succede in Palestina dal punto di vista dell'istruzione in tutti gli ordini e i gradi di scuola. Non si può prescindere, se si vuole fare questo discorso, dalla situazione sul territorio, dallo spezzettamento che viene generato e provocato dall'occupazione israeliana, i checkpoint, le strade che non possono essere percorse dai palestinesi e tutto quindi la difficoltà di spostamento e il rallentamento anche che i checkpoint provocano. Per cui lavoratori, cittadini e studenti soprattutto, dai bambini delle elementari fino ai ragazzi che vanno all'università, devono affrontare tutti i giorni questa situazione. Perché, Laura, la Palestina ha queste dotazioni scolastiche, sia per quanto riguarda le scuole elementari, sia diversi ordini e gradi fino all'università. Ci sono diverse università, c'è anche due istituti di tecnologia, due politecnici, insomma, uno mi pare che sia uno a Hebron e uno a Ramallah, se ben ricordo. Sì, effettivamente, naturalmente per la Palestina, per i palestinesi, per il loro diritto a vivere sul loro territorio, l'insegnamento, l'istruzione sono un valore fondamentale. Credo che l'analfabetismo sia quasi stato sconfitto in Palestina, nel senso che anche i villaggi più remoti, più rurali, quelli dove appunto ci sono solo contadini e pastori, in realtà è possibile raggiungere delle scuole, ci sono delle scuole. In particolare io vi farò solo alcuni esempi, che sono gli esempi che conosco, quelli dove, che ho visto un po' con i miei occhi e o dei quali sono stata informata da persone che hanno fatto un lavoro simile al mio. Io sono stata volontaria per quattro turni per un'associazione che si chiama Operazione Colomba, che è un'associazione italiana, una ONG, che è situata, diciamo, che si trova a Rimini e che manda volontari dal 2004 in un villaggio della Cisgiordania che si chiama Tuani e che si trova nell'estremo lembo sud della Cisgiordania, a sud di Hebron, là dove c'è la linea verde, dove ci sarebbe il confine del 49 fra Palestina e Israele. Bene, su questo vorrei che ci raccontassi qualche cosa. Ce lo racconti subito o quando vuoi tu? Perché questo è estremamente interessante. Io te l'ho sentito raccontare in altre occasioni, l'accompagnamento dei bambini, perché, come, ma perché, qual è il tipo di difficoltà che c'è per uno studente in Palestina? Ecco, questa è la domanda. Beh, quello che dicevo prima, cioè veramente raggiungere i luoghi dell'insegnamento, perché siccome la Cisgiordania in particolare, non parliamo di Gaza, che sappiamo tutti che è una prigione a cielo aperto dove è tutto molto complicato, ma anche in Cisgiordania, che non esiste più come territorio vero, unitario, ma è uno spazio, una regione, traversata da infiniti insediamenti coloniali e quindi strade che sono percorribili solo da parte degli israeliani e non da parte dei palestinesi, raggiungere le università, le scuole elementari, le scuole medie e i licei è un'impresa. Nel villaggio dove stavo io, per esempio, i ragazzi che vanno all'università di Hebron si alzano la mattina, forse prima delle 6, percorrono la strada fino a Yatta, che è la città principale, a volte a piedi, a volte con mezzi di fortuna, devono attraversare una bypass road dove spesso ci sono dei checkpoint che li tengono fermi. Quando arrivano a Yatta prendono un service, cioè una specie di taxi collettivo che li porta fino a Hebron, ma tutto questo comporta ore di viaggio. Poi lì vanno all'università, poi tornano il pomeriggio rifacendo lo stesso percorso. E nel villaggio le mamme sono molto attente a vedere se i ragazzi stanno tornando, perché potrebbero essere fermati a un certo punto, potrebbero essere presi dai soldati, potrebbero essere mandati in prigione. E quindi ci sono tutte telefonate che si fanno fra gli studenti e le famiglie a casa, e poi loro arrivano e quando arrivano poi devono anche portare fuori le pecore, devono andare anche nei campi perché è un villaggio che vive su questo. Poi magari ne parlo un po' meglio dopo. Ma sì, io volevo citare un rapporto che ho visto di Intercultura, che è un rapporto di quasi 10 anni fa, ma già 10 anni fa la situazione, almeno in termini numerici, era un po' questa. Dunque, si registravano nell'ambito della Palestina occupata 61 posti di controllo, 6 posti di controllo parziali, 102 blocchi stradali, 364 cumuli di terra, 28 muri provvisori, 48 cancelli di strada, 61 trincee, 39 torri di osservazioni in tutta la Cisgiordania. Insomma, adesso, per un totale di 719 barriere fisiche e quindi impedimenti al movimento. Cioè, per ciascuna di queste barriere vuol dire trovare soldati, trovare chi si chiede documenti, vuol dire aspettare dei tempi. E questo quasi 10 anni fa. Ora le cose mi risulta che siano molto peggiori. A questo proposito, forse potrei citare un esempio che riguarda Gerusalemme, quindi anche, diciamo, invece la città, non uno sperduto villaggio della zona C. Vi parlo di Gerusalemme Est, dove una periferia che si chiama Sheikh Saad, una periferia di Gerusalemme Est, è stata isolata dalla città dal muro che è stato costruito dagli israeliani, muro di protezione, così detto, così chiamato. Questo villaggio ha un unico checkpoint che collega il paese con Gerusalemme, che è un checkpoint pedonale. Sono solamente un centinaio di abitanti possono passare questa barriera in entrambe le direzioni. Tutti gli altri devono percorrere, devono aggirare il muro e devono farsi quindi 40 km attorno alla città, che significa un'ora di macchina. Questo vale anche per, molto spesso, anche per gli studenti, per i bambini. Quindi c'è questo isolamento di una periferia di Gerusalemme che sarebbe città, quindi sarebbe zona A. Tutti sappiamo che la Palestina è divisa dagli accordi di Oslo in zona A, che è sotto il controllo palestinese, dell'autorità palestinese, in teoria, zona B, dove il controllo palestinese si limita alla parte amministrativa, ma invece il controllo militare è israeliano, e una grandissima parte della Palestina che invece è zona C, che è tutta sotto il controllo militare e amministrativo israeliano. Il villaggio di cui vi parlerò, Tuani, si trova in zona C. Beh, questa situazione delle barriere comporta degli impedimenti macroscopici. Risulta che all'Università di Beer Seit sono stati perduti in un anno 2/3 dei giorni di lezione e in conseguenza di queste barriere, di queste attese, di questi professori che non vengono. A cui non viene dato il permesso di accedere, perché il problema non c'è solamente per gli studenti, c'è anche per i professori, perché molto spesso i professori non sono palestinesi, ma vengono da fuori, sono volontari, la maggior parte sono professori volontari che vengono dall'estero. E su questo ci dici qualche cosa, Laura? Ma sì, ho trovato un articolo molto interessante scritto da una professoressa dell'università, della Hebrew University, una professoressa israeliana che si chiama Daphna Golan, che insegna alla facoltà di diritto, che dice come per l'appunto il problema delle università palestinesi è che non hanno la continuità didattica perché i professori vengono mandati via dopo poco tempo. 5 anni, oppure c'è stato un caso abbastanza clamoroso di due professori, Laura Wick e suo marito, il professore Roger Hickok, che dopo 35 anni di insegnamento sono stati ritenuti residenti illegali e quindi sono dovuti partire. E questi esempi sono moltissimi, tanto che la professoressa Golan si chiede se da parte di Israele non ci sia veramente la volontà di chiudere l'istruzione, diciamo, palestinese, per far sì che l'istruzione superiore venga negata e far sì quindi che i palestinesi non siano più esposti né a conoscenze straniere né a rapporti interculturali e che quindi questo probabilmente all'occupazione fa comodo. E questo per quanto riguarda allora lo spezzettamento del territorio e gli impedimenti i permessi, i super permessi, le difficoltà di ottenerli, sia per gli studenti che per i professori. Ma vorrei sentire l'esperienza tua a questo punto, Laura, perché tu sei stata, hai detto diverse volte, e a un certo punto hai smesso di andarci. Allora, se ci spieghi un po' la tua storia, appena dopo l'intervallo musicale, te ne saremo grati. يا جمال فمن ما، أغار Allora, Laura, in Palestina tu che cosa sei andata a fare e perché? E quando hai smesso di andarci e perché? Ecco, raccontaci un po'. Dunque, io ho cominciato ad andare in Palestina nel 2015, quando sono andata in pensione, quindi ho potuto cominciare a fare delle cose in tempi che non fossero solo le vacanze estive. Sono andata con Asso Pace a fare un primo viaggio e ho chiesto a Luisa Morgantini, appunto, di fare qualcosa come volontaria. Lei mi ha detto in che ambito volevo farlo. Io ho detto che avevo letto un articolo di Michele Giorgio tanti anni fa, che volevo fare accompagnare i bambini a scuola. Lei mi ha portato durante quel viaggio a Tuani, io ho conosciuto i ragazzi di Operazione Colomba, ho scritto all'associazione, ho fatto la formazione in sede, cioè a Rimini, e poi nell'ottobre del 15 sono partita la prima volta. Ma perché accompagnare i bambini a scuola? Che bisogno c'è? Qui i bambini vanno a scuola da soli. Ecco, in questo villaggio però non è così esattamente, perché Tuani è il villaggio che si apre su altri 14 villaggi della zona, appunto, che si chiama la regione di Yatta, a sud di Hebron, vi dicevo prima, che è una zona vicino al confine dove comincia la firing zone, dove gli israeliani fanno i loro addestramenti militari, quindi passano bombardieri a tutte le ore del giorno e della notte, perché si va nel deserto del Negev, dove forse si fanno anche esperimenti nucleari, pensiamo noi o penso io. E questo villaggio è l'unico che ha una scuola, perché è un villaggio che gli israeliani non possono più demolire, diciamo, che ha il diritto di esistere, mentre tutti gli altri villaggi attorno sono più o meno costruiti, non costruiti, sono tende, sono grotte, perché gli abitanti non possono in realtà costruire. Quindi vengono a scuola a Tuani. Ma sulle due colline che passano da Tuba a Tuani ci sono due colonie, una che si chiama Maon, che è una colonia illegale per l'ONU, diciamo, per la comunità internazionale, ma legale per Israele, e un altro nella collina opposta che si chiama, è un avamposto, si chiama Avat Maon, che invece è illegale anche per gli israeliani. Purtroppo la strada che porta a scuola passa sotto queste due colonie. I bambini che vengono da Tuba e anche da altri villaggi della zona, della firing zone, devono attraversare questo pezzo di strada che ci vogliono un quarto d'ora per attraversarlo. E fin dal 1999, quando appunto si sono formate queste colonie, i bambini hanno cominciato a essere picchiati, minacciati, inseguiti e quindi terrorizzati. E degli internazionali, all'epoca erano americani soprattutto, avevano cominciato sapendo questa cosa, ad andare a vedere, a monitorare, a fotografare, e a un certo punto uno di questi volontari era stato picchiato selvaggiamente. Naturalmente Israele è grande amica degli Stati Uniti, quindi questa cosa aveva messo un po' di disagio, perché gli Stati Uniti hanno protestato perché un loro cittadino era stato picchiato. Ma era stato picchiato da chi? Era stato picchiato dai coloni, i famosi coloni che stanno a Maon e a Havat Maon. Naturalmente sono dei coloni non economici, sono dei coloni ideologici, sono dei coloni che pensano che quella sia casa loro, terra loro, e che i palestini se ne devono andare. Sono quei coloni che hanno i riccioli ortodossi, che hanno tanti figli, che forse insomma avete visto nei film o alla televisione. E sono abbastanza, molto violenti, non abbastanza, l'ho visto anche con i miei occhi. In ogni caso, quella volta, nel 2004, l'alta corte di giustizia israeliana ha deciso che i bambini palestinesi sarebbero stati accompagnati a scuola da una camionetta di soldati israeliani. Paradosso. Palestinesi difesi da soldati israeliani nei confronti di coloni israeliani. Questo è un paradosso che continua dal 2004, adesso siamo nel 2019. E questi soldati si presentano regolarmente tutte le No. mattine e accompagnano questi bambini. In realtà no, appunto, questi soldati molto spesso, ho anche gli ultimi report che mi hanno mandato i ragazzi della Colomba, anche quello di agosto, perché la scuola comincia il 25 agosto, ho quello di maggio del 2019, ho tutti quelli precedenti, anche quando c'ero io. I soldati arrivano regolarmente in ritardo, quindi i volontari, che adesso sono i volontari italiani della Colomba, devono telefonare al comando e chiedere perché i soldati non arrivano, devono telefonare agli avvocati perché sollecitino il comando che mandi i soldati. I soldati dovrebbero scendere dalla camionetta e accompagnare i bambini a piedi, non lo fanno quasi mai, stanno sulla camionetta, per cui se scendono i coloni, molto spesso la camionetta è più indietro oppure più avanti e i bambini devono scappare, insomma, ecco, cosa che succede spesso. Dopodiché, appunto, dal 2004 questa ONG italiana si è installata nel villaggio. Questa è una caratteristica speciale, perché solo la Colomba, per quello che ne so io, vive nel villaggio insieme ai palestinesi tutti i giorni, mattina, pomeriggio, sera e notte, perché non si accompagnano solo i bambini, ma poi si accompagnano anche le persone che devono andare in città e devono passare il checkpoint, le persone che devono andare a coltivare la terra, i pastori che devono andare a far pascolare le loro pecore. Quindi diciamo che i volontari stanno lì come dei cittadini. Naturalmente cittadini che Israele non vuole, non sa in teoria che ci sono, anche se lo sa benissimo, perché li fotografano, perché li vedono, perché sanno, sono lì ormai da 15 anni, però diciamo che c'è una specie di status quo per cui si fa finta di non saperlo. Quindi questi volontari stranieri sono a protezione delle attività di studio o di lavoro dei palestinesi. Ora, quello che è una notizia di questi ultimi giorni è che un gruppo di volontari stranieri accompagnava contadini alla raccolta delle olive, perché durante la raccolta delle olive ci sono incursioni da parte dei coloni che rubano le olive oppure distruggono gli uliveti. E c'era un gruppo non di volontari stranieri, di volontari israeliani. E un rabbino è stato picchiato ed è stato ricoverato in ospedale, picchiato dai coloni. Era un rabbino di un gruppo di rabbini che si chiama Rabbini per i diritti umani e che hanno sollecitato volontari israeliani ad aiutare i palestinesi alla raccolta delle olive, cioè ad accompagnare, da fare da schermo per evitare le violenze da parte dei coloni. Ecco, per quanto riguarda l'esperienza tua, magari adesso ce ne parli dopo il secondo intervallo musicale, ecco, com'è che a un certo punto hai smesso di andarci? Che cosa è successo poi? Allora, sentiamo un attimo un intervallo e poi riprendiamo. عليكم وأقول أفديكم Allora, riprendiamo dall'esperienza di Laura. Quanti anni ci sei stata e come è andata a finire alla fine la conclusione della tua esperienza? Dunque, io ci sono stata per 3 volte, un mese all'anno, 15, 16 e 17. Questo argomento per me è molto doloroso, vi confesso, perché questa esperienza mi aveva cambiato la vita. Io lo facevo con un grande slancio, nonostante la mia età, non più verde, perché in realtà i volontari lì sono tutti giovani, sono ragazzi che hanno dai 20 al massimo 30 anni. Io ero l'unica vecchia, chiamata zia, molto rispettata anche dal villaggio, ma anche rispettata paradossalmente dai coloni e dai soldati, perché non si aspettavano di trovare una persona anziana a accompagnare i bambini, quindi loro insomma avevano sempre di fronte a loro dei giovani come loro. E l'ho fatto appunto vivendo lì nel villaggio con i ragazzi in questa piccola casa che abbiamo affittato, accompagnando quindi i bambini in questa cosa che si chiama School Patrol, facendo tutte le sere i report su internet, mandando video, foto di tutto il monitoraggio che noi facciamo e che adesso fanno questi volontari. Poi nel 18, cioè l'anno scorso, sono partita di nuovo, ma come tutti sanno, la Palestina non esiste, quindi bisogna passare da Israele per andare in Palestina. Quando sono arrivata a Ben Gurion, che sarebbe l'aeroporto, in realtà questo è il nome che gli hanno dato gli israeliani, comunque di Tel Aviv. Stavolta il poliziotto che controlla i passaporti mi ha fermato e mi ha detto che non era possibile che io andassi a fare un viaggio, perché io ho detto che andavo a fare un viaggio in Israele, andavo a vedere il Mar Morto, andavo a Acre, andavo insomma a visitare i posti, anche i posti della religione, delle varie religioni monoteiste. Insomma, andava in Terra Santa, ecco. Esatto, andavo in Terra Santa. E lui mi ha detto che era impossibile che una donna della mia età viaggiasse da sola, perché di solito le donne della mia età, questo lo diceva con molta poca gentilezza, devo dire, viaggiano in gruppo, con un capogruppo. E io mi sono messa un po' a ridere, gli ho detto: ma veramente io viaggio da sola, le donne italiane viaggiano da sole. Lui mi ha detto che non è vero, che in Italia le donne invece stanno a casa. E dopo questo teatrino mi hanno interrogato molto a lungo, dalle 4 del pomeriggio praticamente fino a mezzanotte. Sono stata interrogata prima da, credo, un poliziotto dell'antiimmigrazione, ma non lo so, poi da altri invece dell'antiterrorismo, che mi facevano tante domande, volevano sapere da chi mi mandava, da dove venivo, quali associazioni, sempre senza accusarmi di niente, senza dire niente. Io naturalmente non volevo mettere di mezzo né a Sopace né la Colomba, per cui continuavo a dire quello che avevo detto, cioè che andavo a fare un viaggio e che non potevano credere che io andassi a lavorare come un'immigrata, perché avevo la carta di credito, avevo tutto quello che ci vuole, che sono una pensionata. E poi, ridendo, gli ho anche detto che forse non potevano credere che io fossi una terrorista. Loro mi hanno detto che non credevano niente, ma semplicemente non mi credevano. Poi uno a un certo punto mi ha domandato, mi ha fatto la fatidica domanda se sapevo che cos'è il BDS. Io ho detto: ma sì, lo so cos'è il BDS. Mi ha chiesto se avevo firmato qualcosa, io ho detto: forse, ma non lo so. E quindi lui mi ha detto che io ero contro lo Stato di Israele, contro Israele, contro gli israeliani, che ero quindi una nemica. E io ho detto semplicemente: a quel punto avevo già capito dove si andava a parare, e ho solo detto che io non ero assolutamente nemica degli israeliani, ma forse avevo qualcosa da dire nei confronti del governo di Israele. A quel punto mi hanno portato in un centro di detenzione, mi hanno chiuso in una stanza insieme ad altre donne che parlavano russo. Finalmente mi hanno mandato in bagno, perché tutto il giorno non mi avevano neanche mandato a fare pipì. E poi la mattina dopo mi hanno caricato su un aereo dell'Alitalia e mi hanno rimandato indietro. Avevo un foglio nel quale c'era scritto che sono persona non grata, praticamente, ma senza nessuna motivazione di altro tipo. E che se volessi tornare in Israele dovrei chiedere un permesso al Ministero degli Interni loro. Il che significa che probabilmente poi il permesso lì per lì me lo danno, poi quando arrivo mi rimandano via. Questo non è successo solo a me, ahimè, questo è successo anche a molti altri volontari, non solo della Colomba, ma volontari anche americani, perché ci sono molti volontari anche a Hebron, per esempio, che fanno lo stesso lavoro che facciamo noi di accompagnamento dei bambini. E quando però appunto i volontari sono stati buttati fuori, perché questa cosa succede, dopo 4 o 5 volte che si entra, Israele blocca. Però, per esempio, nel nostro villaggio, i ragazzi del villaggio che dal 2004 in poi adesso sono diventati bambini, che avevano 4-5 anni, adesso hanno 23-24 anni e sono laureati. Sono ragazzi a cui l'associazione Assopace anche garantisce il pagamento delle tasse universitarie. E sono molti di loro si laureano in legge, altri si laureano in inglese, in materie per l'insegnamento, insomma, sono ragazzi che studiano, nonostante questo villaggio sia un posto veramente fra i più sperduti, più lontani, un posto che non, è difficile anche descrivere, in una zona semidesertica, insomma, abbastanza lunare come luogo. Però i ragazzi studiano e studiano tutti, anche quelli che hanno più, fanno più difficoltà, anche quelli che portano fuori le pecore, però vanno anche a scuola, e questo lo voglio ribadire. Quindi c'è stata dici che c'è stata una continuità tra l'impegno vostro e l'impegno loro, cioè c'è una specie di passaggio di testimone. Questo in quali momenti è avvenuto in particolare? Esatto. Questo per esempio è avvenuto l'anno scorso, quando c'è stato il Giro d'Italia famoso che partiva da Israele. Come forse vi ricorderete, c'è stata un'opposizione abbastanza forte. Quindi in Israele avevano le antenne dritte e mandavano via, molti stranieri sono stati mandati via. Così come poi sapete che sono stati mandati via i carabinieri che a Hebron facevano, diciamo, una specie di peacekeeping. Perché Israele non vuole che qualcuno veda quello che succede veramente. E quando l'anno scorso appunto sono stati mandati via diversi volontari oltre me, i ragazzi del villaggio, ne ricordo almeno 4, sono stati loro ad assicurare l'accompagnamento dei bambini, la presa in diretta dei video e delle cose che succedono ai checkpoint, con i coloni e nei vari villaggi. E quindi questa continuità fa sì che effettivamente la resistenza non violenta continui e continua da parte dei giovani soprattutto. Ecco, una cosa di cui una notizia, un evento che ha bucato i media anche qui da noi in Italia è stata la questione della scuola di gomme. Ecco, su questa, qual è la situazione? Ma dunque, io appunto immagino come tutti voi, ho letto, ho cercato di trovare tutti gli articoli che sono stati pubblicati su questo. La scuola sembra che entro la fine dell'anno verrà veramente abbattuta e anche questi 200-300 beduini che vivono lì verranno spostati per fare posto a una discarica o comunque a un inceneritore. Ma in realtà la cosa è che questo luogo è molto strategico per Israele perché è quello che porta da Gerusalemme alla Valle del Giordano, passando per Gerico, e quindi Israele non vuole che ci sia più palestinesi, vuole dividere completamente le due regioni che sono quella del nord di Nablus e quella invece del sud. La scuola di gomme è una scuola senza fondamenta, ma costruita secondo criteri ecologici e secondo le regole di costruzione israeliane e che è una scuola, cos'è, elementare media, mi Sì, pare. è una scuola, direi che è una scuola di elementare media, costruita appunto con queste grandi gomme di camion, che poi sopra i quali sono messi dei teloni, proprio per non fare le fondazioni e perché non venga, era stato fatto perché non fosse demolita, e l'ha fatta una ONG italiana, anche questa, che si chiama Vento di Terra. Quindi in realtà a livello internazionale sono state molte le proteste, per questo ancora non sono riuscite dal 2009, non sono riuscite a distruggerla. Ma purtroppo sembra che ora, con questo nuovo governo Netanyahu o Gantz, non so bene che, la ONG sionista che ha chiesto che venisse distrutta perché lì c'è una colonia che si deve espandere, una grande colonia israeliana, probabilmente questa volta riusciranno perché tutte le proteste, tutti i ricorsi che sono stati fatti, probabilmente sono arrivati all'ultimo stadio, all'ultima tappa. Ecco, questa continuità territoriale quindi viene richiesta da Israele senza guardare ai danni e alla popolazione palestinese che si dice che no, non esista, perché i palestinesi, secondo Israele, non esiste come popolo. Ora, volevo ricordare che nel 2017 furono abbattute tre scuole elementari, tre strutture, all'inizio dell'anno scolastico. Nel 2018 erano a rischio di abbattimento 60 scuole, quindi c'è una campagna di contro l'istruzione sistematica da parte di Israele, probabilmente per adeguarla a quella che viene a come viene rappresentata la Palestina e i palestinesi nei libri scolastici di Israele. Eh sì, è proprio questo, per rimandare la Palestina a quell'idea di arabi ignoranti che appaiono nei libri israeliani, nei libri di scuola israeliani. Volevo dire un'ultima cosa, forse se ho ancora un po' di tempo, Claudio? Poco. No, poco. Volevo solo ricordare l'importanza delle scuole di musica in Palestina. Scuole di musica nelle quali i bambini, soprattutto quelli traumatizzati, quelli che soffrono, perché immaginate i bambini che devono andare a scuola tutte le mattine. Temendo le botte e i cani dei coloni mandati a zannarli, i quad che gli vengono a spaccare le gambe addosso. Questi bambini arrivano, cioè se arrivano a scuola, arrivano comunque non certo con la mente lucida per apprendere e quindi molto spesso hanno dei disagi psichici. E le scuole di musica, moltissime ce ne sono di scuole di musica. E i ragazzi non solo suonano tanti strumenti, ma danzano, fanno queste danze, la dabka palestinese che le aiuta per il coordinamento. E devo dire che di questo ci sono tante esperienze di cui magari un'altra volta parleremo. Ecco, da ultimo vorrei ricordare una cosa che ha detto Laura, cioè il fatto che l'aiuto che noi diamo come associazioni di amicizia e come associazioni filo-palestinesi alla Palestina sono non solamente la presenza locale per accompagnare i bambini, per accompagnare i contadini, ma anche un sostegno finanziario all'istruzione. Cioè Assopace Palestina sostiene ragazzi nell'università, Amicizia Italo-Palestinese sostiene bambini nelle elementari, quindi sono delle sorti di adozioni a distanza Bene. che come associazioni facciamo. Bene. Con questo vi salutiamo e vi ringraziamo del vostro ascolto e vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo. Grazie. Grazie. أرضي وبلادي قلبي وفؤادي من هالمجد من هالمجد من هالمجد مجد مجد عاشت عربية حرة أبية في ظليكم قابوس عزي وبلادي قلبي وفؤادي من هالمجد يا وطني تشرق في بدري.